ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è.